Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ho sempre pensato che il mestiere del comico sia uno dei più difficili al mondo. Anche perché non si può barare, cioè se un cantante canta e magari il pubblico non gradisce tantissimo, però un applauso per gentilezza lo puoi fare. Ma se tu vuoi far ridere e al tuo interlocutore non viene da ridere, non c'è niente da fare. E trovare un modo per far ridere il pubblico utilizzando una battuta, un'espressione del viso, l'intonazione della voce, e spesso è frutto di un lavoro che richiede anni di preparazione. Ci sono attori comici che si scrivono da soli i testi, altri invece che si affidano ad autori professionisti. Bene, il personaggio di cui oggi raccontiamo la storia è stato tutte queste cose assieme. È stato un autore, un attore, un regista, ha dedicato tutta la sua vita a far ridere gli altri, pur avendo vissuto lui, come spesso accade ai comici, una vita travagliata e difficile. Un giullare con una malformazione nata a causa di una malattia, che però in definitiva è stata la sua fortuna, perché l'ha fatto diventare un personaggio conosciuto e stimato, e soprattutto facilmente riconoscibile, con un marchio di fabbrica preciso nel mondo della televisione e del cinema. E il marchio di fabbrica era il suo sguardo inconfondibile. Stiamo per raccontarvi la storia di Marty Feldman. Siamo a Londra, nel quartiere dell'East End. Martin Alan Feldman nasce l'8 luglio del 34. La sua è una famiglia ebrea di origine ucraina. È un periodo in cui la scuola è una preparazione molto rapida per entrare nel mondo del lavoro, per dare una mano. Insomma, lui ha 15 anni. Marty, come già tutti lo chiamano, lascia la scuola, comincia a lavorare. Dove? In un parco di divertimenti. A lui piace molto suonare la tromba, sogna di diventare un grande musicista jazz e cresce ascoltando i grandi classici di Louis Armstrong, di Ella Fitzgerald. One of the most important things in my life is music. Una delle cose più importanti della mia vita è stata la musica. Lavoravo come jazzista in un piccolo locale ogni lunedì pomeriggio, sperando di trovare un ingaggio e diventare uno dei migliori musicisti al mondo. E beh, a volte capita di inseguire un sogno e poi di imboccare una strada diversa, anche se contigua. Marty Feldman comincia a calcare le scene, ma quasi subito diventa non più un musicista, dà vita insieme a due amici a un trio comico, Morris, Marty e Mitch. Esegue delle scenette, la loro ispirazione sono i fratelli Marx. In realtà lui ha un altro idolo, che è Buster Keaton, il grande divo del cinema muto. E Marty dimostra subito di essere l'uomo di punta di questo trio, e questo gli apre nuove possibilità di lavoro. Nel 54 comincia a lavorare alla radio, alla televisione, entra a far parte di un team di autori che firmeranno le più riuscite trasmissioni e sitcom degli anni 50. Con lui c'è anche Barry Took, che è un autore con cui condividerà gran parte della sua carriera. Marty used to claim that... Marty è la persona perfetta con cui scrivere. Se qualcuno ci incontra, potrebbe tranquillamente chiamarci Marty Took e Barry Feldman, perché ormai siamo così in sintonia tra di noi, e questo è il frutto di anni trascorsi a lavorare insieme ogni singolo giorno. Feldman e Took formano una coppia di autori molto interessante. Accade in Inghilterra quello che noi in Italia abbiamo visto con altre famose coppie di autori: Age, Scarpelli, Amurri e Verde, Arbore e Boncompagni, che erano autori che poi, diciamo, si esponevano anche. Gli ascolti dei programmi salgono e con loro salgono le quotazioni dei due. Marty Feldman non è molto veloce a usare la macchina da scrivere, quindi immaginate questa scena: lui che sforna ripetizioni, idee, battute, gag, però non riesce a scrivere a macchina seguendo la velocità dei suoi pensieri. Così lascia che Barry Took prenda appunti scrivendo tutto su un foglio, poi tutto questo viene battuto a macchina e diventa copione solo successivamente. E spesso, insomma, le idee nascono dal caos. Lui è un vulcano di idee, se ne accorgono tutti, anche i suoi datori di lavoro, che sono la BBC. E lui inizia a lavorare su show sempre più importanti. nel 1961 accade un fatto che segna pesantemente e definitivamente la vita di Marty Feldman. Vedrete, è un colpo d'ala negativo che si trasforma in una grande opportunità. Comincia a avere dei problemi alla tiroide, soffre del morbo di Basedow-Graves, un morbo che crea uno scompenso del nervo ottico. Insomma, gli occhi azzurri di Marty Feldman cominciano ad andare fuori asse, il sinistro si allontana, lo sguardo divergente diventa una caratteristica che lui si porterà dietro per tutto il resto della vita. Quello che può sembrare una tragedia, insomma, assume a volte un ruolo diverso nella vita di un uomo che peraltro deve far ridere le persone. E lui trasforma la sua malattia in una opportunità e si differenzia dagli altri e diventa un personaggio. Gli anni 60 sono un periodo ricco di talenti per lo spettacolo inglese. Marty Feldman lavora ancora nell'ombra come autore, però sullo schermo, negli show televisivi della BBC. E intanto però ci sono personaggi come John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, grandi attori comici dotati di un forte senso dell'ironia, umor inglese. Marty Feldman scrive per loro gli sketch più esilaranti dei periodi. I nomi che vi ho appena detto sono i fondatori di un gruppo comico che è passato alla storia e anche i fondatori di una band che si chiama Rattles, nella quale loro rifacevano, sfiorando il plagio, ma sempre in maniera fenomenale e divertente, le canzoni dei Beatles. Insomma, i Monty Python diventano i cardini della comicità inglese e non solo. Il falco e il gabbiano. Nel 1967 la BBC manda in onda un programma satirico di 13 episodi intitolato At Last, The 1948 Show. È un programma molto famoso in Inghilterra, contiene alcuni sketch che ancora oggi vengono riproposti da altri attori. I protagonisti sono i Monty Python, li abbiamo citati prima, ma accanto a loro per la prima volta compare in TV come coprotagonista anche lui, Marty Feldman. E la sua scelta di apparire in video dipende da due fattori. Intanto lui è il principale autore delle gag e quindi forse quello più in grado di interpretarle, dando consigli anche ai suoi colleghi. E poi Feldman ha un grande colpo d'ala, perché la sua ironia è così alta da convincerlo del fatto che la sua bruttezza e il naso aquilino e poi questa brutta novità degli occhi divergenti, il mento sporgente, insomma, tutto questo può diventare uno strumento di grande impatto per accentuare la comicità dei testi e creare un personaggio che si candida a diventare il caratterista per eccellenza. Introduced each other formally. My name's Sidney Lotterby. Oh, there's a turn up. My name's Sidney Lotterby. So is mine. And mine. Quello che state ascoltando in questo perfetto inglese, uno degli sketch più famosi, quattro persone sedute al tavolo di un bar che si presentano tra di loro, tutte e quattro dicono di chiamarsi Sidney Lotterby e tutte e quattro parlano esattamente con la stessa voce. È una scena scritta interamente da Marty Feldman, diventa un classico della comicità inglese e di quel mondo surreale che ruotava attorno ai Monty Python. Viene riproposta spesso questa scena anche in chiave moderna, un po' come se parlassimo, non so, per quanto riguarda l'Italia, delle più divertenti scene dei film di Totò. E insomma, Feldman conquista la popolarità televisiva e arriva al punto di meritarsi uno show tutto suo, e il titolo è semplicemente Marty. The winner's plaque to the team of writers for Marty, to be received by Marty Feldman on their behalf. E questo è uno dei tanti premi che Feldman si porta a casa in quel periodo. Questo è il BFTA, l'Oscar televisivo inglese. Feldman vince nel 69 come miglior autore e come personaggio emergente. È un periodo fortunato per lui, è un periodo di grande popolarità. E come spesso accade soprattutto ai comici, dietro a una facciata di sorrisi e di simpatia c'è un animo che invece cova una insicurezza, un senso di solitudine che lui si trascina fin da bambino. E quindi è un periodo anche di attacchi di depressione, poi arrivano le medicine, arrivano i calmanti, arriva anche l'eroina. Insomma, c'è l'idea di mettere fine a tutto con un gesto autodistruttivo. La maschera del clown nasconde un uomo che sta vivendo dei conflitti interiori molto pesanti. E un modo per reagire alla sua insicurezza è ostentare la popolarità che ha ottenuto. Si va in un nuovo appartamento che viene arredato completamente con mobili bianchi. Lui si presenta vestito elegante, si atteggia come un divo di Hollywood. Ed è proprio Hollywood, il grande baraccone del cinema americano, che sembra avere bisogno di lui. Insomma, inizia a crescere la voglia di fare l'altro grande salto. Lo aspetta il cinema. Si parte dall'Inghilterra con un film che non ha molto successo. Si chiama Ogni uomo dovrebbe averne due, il titolo italiano. È un film che lo vede sceneggiatore protagonista, che non lascia traccia nella storia del cinema. È l'unica cosa che si nota in questo film è una emulazione anche troppo spiccata con il mito di Thelma, che è Buster Keaton. Quindi ci sono scene spericolate, capitomboli, mimica facciale tipica del cinema muto. Insomma, questo film non è certo un fine, ma è un mezzo, il mezzo con cui affacciarsi al mercato americano. E c'è uno show che si chiama The Marty Feldman Comedy Machine, che viene coprodotto con la ABC americana e trasmesso oltreoceano. E c'è un altro grande attore comico che guarda questo programma in TV. È nota quest'uomo brutto, con un grande naso, con gli occhi divergenti, un uomo che potrebbe rappresentare una maschera comica, ma anche inquietante, per il film che lui sta scrivendo. I would watch the Marty Feldman Comedy Machine. Ogni sabato sera vedevo la Marty Feldman Comedy Machine. Così, scrivendo la parte di Igor, ufficialmente Igor, pensai a Marty. I was thinking of Marty. Eh sì, davanti al teleschermo c'è anche Gene Wilder, che guarda questo show e comincia a pensare a Feldman dal punto di vista operativo, perché lui sta lavorando a un film che diventerà un'icona del cinema comico mondiale. Un film che parla del discendente del barone von Frankenstein, o Frankenstein come dice lui, con un castello particolare. Insomma, avete già capito che cosa sta per nascere. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Marty Feldman, il grande comico inglese che è conosciuto, diciamo, per un aspetto non certo seducente, il suo occhio strabico che deriva da una malattia tiroidea, lo stesso occhio che lui riesce non solo a accettare, ma a capitalizzare, a trasformare a suo vantaggio. E dopo aver ottenuto molto successo nei programmi radiofonici e televisivi inglesi, di cui lui è autore e protagonista, adesso è pronto al grande salto. Il cinema, quello di Hollywood, per affermarsi come autore e come comico a livello mondiale. E nel 1974 il progetto, il grande film prodotto da Mel Brooks, scritto e interpretato da Gene Wilder, vede la luce. Sarà uno dei film chiave di tutta la comicità mondiale. Sono le avventure di un discendente del barone von Frankenstein che tenta, in un'ambientazione comica, di ripetere l'esperimento del suo avo. È un film che passa la storia anche per le numerosissime gag create da un gruppo di attori eccezionali, e tra questi c'è Marty Feldman, c'è lui che viene scelto per il ruolo dello sbadato servo Igor. Dr. Frankenstein? Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick? No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? Eh sì, questa è una delle gag più famose del mitico Frankenstein Junior, un film che molti di noi, io per esempio, hanno visto tantissime volte, io almeno 10 volte l'ho visto, potrei quasi doppiarvelo, se voi togliete il sonoro ve lo doppio io a casa. È un personaggio azzeccato, lui è il maldestro servitore con la gobba che si sposta peraltro dalla spalla destra a quella sinistra, lui prende la scena, diventa uno dei pilastri della comicità del film, ricordate, non so, potrebbe piovere, la scelta del cervello abnormal, lui dispensa delle battute che spesso si allontanano dal copione originale, sono frutto della sua improvvisazione. Poi c'è la versione italiana con un meraviglioso doppiaggio di Stefano Bonagura, con un grande adattamento dei testi e in alcuni casi le battute addirittura migliorano, come nella celeberrima scena del lupo. Lupo Lula. Lupo Lula? La? Cosa? Lupo Ululà e Castello Ululì. Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non esisto, è lei il padrone. Bene. Eccolo là. Casa. E il film riceve 2 nomination all'Oscar, non se la aggiudica la statuetta, ma diventa un cult movie del genere comico. E nel cast, oltre a Gene Wilder, ci sono Terry Garr, Peter Boyle, Gene Hackman che interpreta l'eremita cieco, un altro momento strepitoso. Ma tra tutti, quello che ottiene il maggior successo è Marty Feldman. Ha realizzato il suo sogno. Tra i tanti aneddoti legati a questo film c'è anche quello che afferma che la frase "Walk this way", pronunciata da Igor o da Igor in un punto del film, sia stata di ispirazione agli Aerosmith, che hanno scritto uno dei loro maggiori successi partendo da questa frase "Walk this way". E dopo aver interpretato Frankenstein Junior seguono altri progetti cinematografici, il primo ancora con Gene Wilder, il fratello più furbo di Sherlock Holmes. Poi c'è un piccolo capolavoro, piccolo grande capolavoro di Mel Brooks, Silent Movie, che in Italia esce con il titolo L'ultima follia di Mel Brooks. È un film muto che riprende lo stile di recitazione dei grandi divi del muto, primo tra tutti quel Buster Keaton che Marty Feldman aveva sempre adorato. Tra l'altro è un film nel quale non parla nessuno e l'unico che parla e dice una battuta è il mimo Marcel Marceau, che normalmente non parlava mai nella vita. Comunque il film è un'occasione di realizzare un sogno da troppo tempo tenuto in un cassetto. Si spalancano le porte di Hollywood per Marty Feldman, gli viene data l'opportunità di realizzare 3 film, un contratto per 3 film, da scrivere, da dirigere, da interpretare, insomma è arrivata la grande svolta. Il primo progetto però si chiama Io, Boghest e la Legione Straniera, è un remake, parodia del film del 39 in cui Feldman interpreta la parte del gemello quasi identico di Boghest interpretato da Michael York. Il film però è un fiasco, c'è anche un giallo perché i produttori americani, per paura che la comicità di Feldman non venga apprezzata, eseguono un altro montaggio del film che in sostanza peggiora ulteriormente le cose. Per Feldman è una grande delusione e non viene recuperata neanche col film successivo, anzi le cose peggiorano perché Frate Ambrogio sarà un fiasco. E a questo punto il sogno di Marty Feldman si ridimensiona notevolmente, un vero e proprio colpo d'ala verso il basso, perché la Universal gli nega la produzione del terzo film previsto. E qui c'è un'analogia tra la sua carriera e quella di Buster Keaton, il suo eroe, l'eroe del cinema muto che con l'avvento del sonoro viene dimenticato, viene messo da parte, però lui non dimentica di essere inglese, per questo torna a casa dove invece è ancora un artista rispettato e circondato da amici. Eh sì, quando si torna a casa e ci sono degli amici da aspettarti, tutto si dimentica anche Hollywood con i suoi produttori che inseguono il profitto, che distruggono la creatività, e qui in Inghilterra è tempo di tornare al lavoro. Peraltro c'è anche una parentesi italiana con un film 40 gradi all'ombra del lenzuolo e poi una piccola parte nel film Brian di Nazareth scritto dai suoi amici storici Monty Python. E una nuova occasione gliela dà proprio uno di loro, Grant Chapman, uno dei primi attori con cui lui aveva realizzato i suoi più celebri e divertenti sketch. Chapman è il protagonista del film Yellow Bird, che è una storia semiseria di pirati in cui Marty Feldman viene chiamato a interpretare una parte, insomma un ritorno alle origini, si torna a fare l'attore, non il regista, si deve ripartire da qui per recuperare la fiducia in se stessi, quella fiducia che sembra sparita. Questa è la mia prima occasione dopo tanto tempo in cui recito in un film che non ho scritto né diretto. Mi sento molto sollevato e penso che potrò dare il meglio di me stesso, perché non ho altre cose a cui pensare. Le riprese si svolgono in Messico, tutto sembra andare per il meglio, è il momento della grande rivincita, l'ambiente è rilassato, però il clima è difficile perché siamo in altitudine, è più difficile respirare, poi si scende sul livello del mare, quindi la pressione dell'aria cambia, insomma il fisico viene messo a dura prova, soprattutto il fisico di uno come Feldman, che è uno che beve molto e che arriva a fumare anche 6 pacchetti di sigarette al giorno, questo almeno quello che dice Mel Brooks, ma è probabile, tanto è vero che e la resa dei conti avviene il 2 dicembre 1982. L'attore viene colpito da un infarto e si congeda dal suo pubblico. Marty Feldman, the comedian with the bulging eyes and the irreverent sense of humor, has died in Mexico City at the age of 49. At the age of 49, 49 anni vissuti tra colpi d'ala, sogni realizzati e sogni non realizzati. Le sue ceneri vengono riposte al Forest Lawn Memorial Park, il cimitero di Los Angeles, dove si trova anche la tomba di Buster Keaton, dell'uomo che aveva dato ispirazione allo stile di Feldman. Negli ultimi mesi prima della sua morte, lui aveva aperto a Los Angeles un ufficio dove aveva cominciato a inseguire di nuovo la sua grande passione, cioè scrivere. Non l'aveva fatto da solo, aveva creato una struttura per accogliere e sostenere giovani autori che, come lui aveva fatto negli anni 60, provano a inseguire il sogno del successo affrontando una battaglia, armati solo di un foglio di carta, una macchina da scrivere, idee e speranza. E così il giullare con un occhio triste che ha saputo regalare al suo pubblico tanti sorrisi e un personaggio indimenticabile, cioè Igor o Igor, rimane un'icona della storia del cinema comico. Una storia di colpi d'ala, quella di Marty Feldman, una storia intensa ma vissuta comunque al di là delle sue nevrosi, circondata da risate e sorrisi. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @radio24.it o negli altri modi che conoscete, attraverso i social, Facebook, Twitter, di tutti noi, di segnalare se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. E poi lo sapete, se mi cercate, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.